partiva dall'osservazione dei transistor che diventavano sempre più densi attraverso il lavoro degli ingegneri inizialmente di Intel e poi di tutte le altre società, che in una profezia che si autoavvera, in competizione fra di loro riuscirono a mantenere questo ritmo. Un ritmo che non si basa sull'illusione, giustamente smentita, che in un mondo finito un esponenziale possa continuare per sempre. Assolutamente no. L'esponenziale di cui la legge di Moore è testimonianza, appunto da 50 anni, attraverso un incremento della potenza ormai di miliardi di volte dei sistemi iniziali, è un inviluppo di generazioni di tecnologie uno dopo l'altro. Infatti, i primi computer a più di 14 erano talmente inaffidabili che si passavano ore a cercare di farli funzionare, cambiando i tubi che si erano bruciati non appena la mattina dopo si accendeva il computer, e si poteva tranquillamente prevedere quello che poteva essere la complessità massima di quella tecnologia, perché se passavi più di 24 ore a cambiare i tubi non funzionava mai il computer, evidentemente. Ma oggi non usiamo più quella tecnologia lì, siamo alla decima generazione di tecnologie. E quelli che prevedono che la legge di Moore possa esaurirsi non si rendono conto di questo, che certo che è l'ultima, non funzionerà più perché ne avremo raggiunto come un limone completamente schiacciato e tutta la sua utilità si sarà esaurita, ma avremo altre tecnologie che ne seguono. Un altro tipo di critica molto facile e che viene mossa contro quelli che osservano questo tipo di fenomeni è che un andamento lineare all'inizio in effetti soverchia a quello esponenziale, che parte molto lentamente e soprattutto in un ambiente necessariamente rumoroso dove ci sono opinioni contrastanti, è difficile da credere che possa prendere il sopravvento, ma poi è quello che effettivamente succede. Ed è quello che abbiamo visto quindi con il hardware dei computer, che è abbastanza potente per dare concreta implementazione a quello che era un sogno millenario. I filosofi antichi, il golem ebraici, e i robot del Rinascimento che erano finti in realtà, ma che rappresentavano questo sogno, e cominciavano a trasformarsi in qualcosa di concreto alla fine dell'Ottocento e ricevevano una consacrazione letteraria con il pezzo teatrale poi diventato romanzo e poi parola adottata da tutte le lingue di tutto il mondo di Karel Čapek, i robot universali di Rossum. Negli anni 50 c'è stata una scuola estiva alla Stanford che si proponeva di risolvere e completare il programma dell'intelligenza artificiale durante quell'estate. Evidentemente avevano un'ambizione esagerata, non ci sono riusciti, non c'è da sorprendersi. Però forse era già un ottimo esempio di necessaria immodestia unita a una pericolosa disumiltà. Da allora si sta lavorando e si sta lavorando con grande sforzo attraverso ondate di entusiasmo e di disillusione che non necessariamente hanno un impatto definitivo, per esempio, sulla ricerca fondamentale in elettronica o appunto dei fenomeni quantistici o i matematici che ricercano gli algoritmi, ma ha un impatto enorme sulla predisposizione positiva degli investitori ad appoggiare progetti che devono dare poi dei ritorni. E io, quando ho cominciato come programmatore Lisp e Prolog negli anni 80 con il mio amico Paolo Stoffella, che è qua nel pubblico, eravamo proprio agli inizi di quello che poi si è chiamato AI Winter, un inverno delle aspettative sull'intelligenza artificiale, perché gli approcci di allora non hanno dato tutto il desiderato. Oggi, con la presenza di hardware specializzati e grandi quantità di dati, che grazie anche ai social network e in generale all'infrastruttura di internet che abbiamo negli ultimi 30-40 anni messo in piedi, abbiamo potuto raccogliere, sposati con algoritmi sofisticati, ecco che questa tripletta di condizioni ha reso possibile la realizzazione di soluzioni molto molto efficaci che quotidianamente tutti voi state utilizzando. Era una barzelletta nel campo dell'intelligenza artificiale che i poveri computer non erano in grado di distinguere tra un gatto e un cane. Ed effettivamente era così. Ma oggi, se voi immagazzinate delle fotografie online, avete già, spero, provato a ritrovarne non per data, ma per la descrizione del contenuto delle fotografie. E oggi, infatti, tutte le piattaforme utilizzano un'analisi che permette a loro di indicizzare le foto per quello che rappresentano. Il problema del riconoscimento delle immagini non solo è stato risolto, ma oggi ha delle caratteristiche di prestazioni sovrumane. E quando nel 2019, sempre la Stanford University ha pubblicato il proprio rapporto sull'intelligenza artificiale, parlava di due nell'uso dei computer che secondo loro avevano subito un'inflessione verso il 2012. E infatti si può, volendo, interpolare questi dati dagli anni 70 fino a quella data del 2010-12, che fosse, poi tirare un'altra linea. Però io non ero molto d'accordo con questo. A mio avviso, quello che stiamo vedendo è un paradigma di sviluppo di tecnologie che non è più meramente esponenziale, ma lo supera, e lo supera grandemente. Abbiamo bisogno di una nuova parola per descriverlo. E ho scelto la parola jolting, cioè in italiano una tecnologia di scossa, dove matematicamente jolt è il nome dato ad un'accelerazione variabile invece che ad un'accelerazione fissa. Una cosa importante, sia qua che in molti altri grafici che vedremo, la scala è logaritmica. Significa che ogni passaggio non è un'unità, ma un ordine di grandezza. Quindi passiamo da 1 a 10, poi da 10 a 100, da 100 a 1000 e così avanti. Quindi quello che abbiamo visto prima era l'utilizzo della potenza del computer necessario per addestrare i sistemi di intelligenza artificiale che avanzano in modo non più esponenziale, non super esponenziale, ma oltre, quello che io chiamo di jolting exponential. Com'è possibile farlo? Com'è possibile che ci sia effettivamente disponibilità di così tanta potenza di calcolo? Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, parla del momento dell'iPhone per l'intelligenza artificiale e fa vedere nelle sue conferenze, questa è molto recente, fatta a Taipei qualche mese fa, questo grafico che io ho preso e ho elaborato un po'. Vedete anche qua che la asse verticale rappresenta ordini di grandezza. Quindi dal 2006 fino al 2024, una quindicina d'anni, poco più, se avessimo meramente avuto un aumento esponenziale, che è rappresentato da questa linea che non è neanche presente nel suo grafico originale, la potenza dei computer e dei sistemi NVIDIA utilizzati universalmente per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale sarebbe aumentato meno di 1000 volte. Invece, quello che hanno ottenuto è un aumento di 10 milioni di volte. Okay? Questo andamento è quello a cui già facciamo oggi fatica ad adeguarci e adattarci. Un paio di esempi noti, penso, a molti di voi. Kodak ha inventato la fotocamera digitale e siccome le sue prestazioni erano terribili, ogni volta che il gruppo di ingegneri chiedeva nuovi finanziamenti per poterlo migliorare, ricevevano la risposta dal consiglio di amministrazione che era una cosa ridicola. National Geographic o Playboy che fosse, avevano bisogno di risoluzioni e caratteristiche di colore e quant'altro, dicevano loro che le macchine fotografiche digitali non avrebbero mai potuto eguagliare. Non capivano l'andamento esponenziale con cui le fotocamere miglioravano. E anche i più appassionati di fotografia tra di voi, oggi, penso, hanno relegato la macchina chimica nel cassetto e usano una macchina fotografica digitale. Un altro esempio è quello di Blockbuster, che noleggiava i... come si chiamano? Le videocassette VHS, e quando arrivavano i DVD già loro ne avevano, però spedirli per posta per poi riceverli indietro, come è stato lanciato Netflix, già non lo facevano, e Netflix già allora sapeva che sarebbero passati allo streaming. E tranquillamente potete trovare articoli di giornali che dicevano che mai sarebbe stato possibile portare nelle case delle persone video di alta qualità, che uno doveva aspettare delle ore se non dei giorni per scaricare i dati necessari per guardare un film. Nessuno evidentemente l'avrebbe fatto. E anche Blockbuster non ce l'ha fatta, non era in grado di adattarsi ad un futuro che stava arrivando come... stava arrivando con una rapidità e una capacità dirompente di tipo meramente esponenziale. In effetti c'è proprio una barzelletta, una vignetta di come ci sia il critico dell'intelligenza artificiale che dice guarda, l'AI non sarà mai in grado di fare un qualcosa, e anno dopo anno quel qualcosa invece viene fatto. Okay? E oggi naturalmente abbiamo altri critici che sostengono altrettanto che l'AI non sarà mai in grado di fare qualcosa, o che se lo farà in una maniera che manca d'anima, che manca di sostanza, che è intrinsecamente inferiore all'essere umano. Una delle cose che oggi tantissime persone dicono è che un'intelligenza artificiale non sarà mai in grado di guidare una macchina in autonomia. Ed è molto interessante perché anche gli esperti, anche gli osservatori, la cui vita professionale dipende dalla loro capacità di tenersi aggiornati, fanno fatica e si accontentano o pensano di potersi accontentare a citare esempi di prestazioni che risalgono a 2 o 3 anni fa, quando il tasso di cambiamento delle capacità e delle prestazioni delle tecnologie avanza talmente rapidamente che magari neanche il risultato di un mese fa può essere usato come esempio per quello che l'AI non è in grado di fare. E le macchine che si guidano da sé non solo arriveranno, ma devono arrivare al più presto, perché smettiamo la guerra più sanguinosa che stiamo combattendo da decenni, che sta portando alla morte di più di 1 milione di persone all'anno e che è appunto dovuto alla nostra incapacità di guidare le automobili. Io credo che la battaglia per la guerra per le macchine autonome sarà vinta da Tesla, ma ci sono già anche altre società come Cruise e Waymo che stanno combattendo in questa competizione importante, e oggi il limite di parità di prestazioni con un guidatore umano è già stato praticamente raggiunto, e l'obiettivo di Tesla di essere 1000 volte migliori rispetto ad un guidatore umano, cioè in una qualunque condizione fare sì che se il tasso di incidenti per una certa quantità di chilometri percorsi da parte dei guidatori umani è X, la macchina faccia 1000 volte meno incidenti, oppure, nel caso questo sia difficile da misurare, ci vogliono 1000 volte più chilometri prima che la macchina faccia l'incidente. Un'altra cosa di cui poche persone si rendono conto è che la lunghissima preparazione che ha visto, per esempio, i robot di Boston Dynamics, alcuni di voi possono averli visti, a forma di cani, a forma di cavalli, recentemente anche in forma umana. Dopo 20 anni di finanziamenti, soprattutto di tipo militare, da parte della difesa americana, aver raggiunto una prestazione bellissima nei video strapreparati che caricano su YouTube, sarà spazzato via dall'ultimo arrivato, fra virgolette, ancora una volta di Tesla, chiamato Optimus, che si basa su un approccio completamente diverso, dove la stessa preparazione dell'automobile, che attraverso esclusivamente le proprie telecamere capisce il mondo, permetterà al robot di capire il mondo. E nel momento in cui, già a partire dall'anno prossimo, ci saranno i primi robot umanoidi nelle fabbriche, prima di Tesla e poi altre, e dopo qualche anno, mettiamo anche 10 anni, nelle nostre case, le regole del gioco cambiano. Innanzitutto cambiano le regole del gioco di quello che chiamiamo economia e produttività, perché nel momento in cui questo robot costa, facciamo cifra tonda, 50.000 euro, viene ammortizzato nell'arco di 3, quindi per l'azienda 15.000 euro l'anno, e lavora in modo inarrestabile. Io ho cercato di ingaggiare conversazioni con dirigenti sindacali per svegliarli, per capire che i temi che stanno affrontando oggi sono temi che appartengono, se va bene, al 1900, ma forse al 1800, che i temi del terzo decennio, cioè del ventunesimo secolo, sono diversi, ma se hanno fatto fatica, e probabilmente non ce l'hanno fatta, ad estendere la propria adattabilità ad un mondo esponenziale, figuriamoci se sono in grado di farlo per un mondo con questi esponenziali di scossa, le jolting exponentials. Una cosa molto importante, a mio avviso, è che la società umana cambia non perché cambiano le persone, cambia perché cambiano le nostre tecnologie. Se i greci e i romani dovevano strutturalmente far conto degli schiavi, utilizzare gli schiavi in ogni possibile situazione, e noi no, non è perché loro erano cattivi e noi siamo. Moralmente penso che possiate essere d'accordo, apparteniamo ad una specie fin troppo vicina, ma la loro tecnologia non poteva farne a meno. Se Spartaco avesse vinto invece di perdere, la sera stessa attorno al fuoco sarebbero stati lì a guardarsi per capire chi sarebbe stato lo schiavo il giorno dopo. Ma oggi, grazie alle tecnologie che abbiamo costruito una società che ha orgogliosamente adottato leggi che escludono la schiavitù. E queste leggi valgono per oggi. Nessuna legge è come la gravitazione universale. Se smetti di crederci, comunque saltando dal quarto piano ti schianti. Se invece smetti di credere in qualche tipo di dogma che sottostà il contratto sociale oggi, magari ti rendi più adatto ad un futuro che sta arrivando. È successo così, per esempio, con il lavoro infantile o giovanile. Quando è stato messo fuori legge nell'Inghilterra della seconda metà del 1800, c'erano articoli in prima pagina sul Times di Londra di come questo avrebbe messo fuori gioco l'industria del carbone inglese. Eppure, quella società è stata in grado di decidere che era un rischio che valeva la pena di correre e hanno vinto. L'industrializzazione, la forza del vapore, hanno fatto sì che ragazzini di 8-10 anni non dovessero lavorare 12-14 ore nel mese. In effetti, in tutto il mondo, le ore lavorate stanno diminuendo. Sono rientrato ieri da Dubai, dove un paio d'anni fa si sono allineati con il mondo occidentale perché avevano il fine settimana, venerdì e sabato, invece di sabato e domenica. E hanno detto, vabbè, ok, dovrebbe essere venerdì, giorno santo, preghiera e quant'altro, però tutto il mondo è sabato e domenica, ci spostiamo anche noi. Il risultato qual è? Da appunto 2-3 anni che sia da quando hanno fatto questa decisione, di fatto hanno un fine settimana di 3 giorni. E sono apripista di una trasformazione che io sto vedendo negli viaggi un po' ovunque, dagli Stati Uniti, alcolizzati del lavoro di primissimo ordine, all'Ungheria e così avanti. In effetti, una delle sfide che avremo è quella di capire cosa significhi lavoro, cosa significhi essere disoccupati. Oggi il contratto sociale è molto semplice, soprattutto negli Stati Uniti. Il tuo valore alla società è uguale al valore della produzione economica, all'output che tu attraverso il nel momento in cui diventi disoccupato e questo output va a zero, il tuo valore per la società va a zero, puoi andare a morire in un fosso. In Europa questo non è così, ci sono le reti di protezione sociale più solide, però non siamo lontanissimi dal immaginare che la dignità e gli obiettivi di vita di una persona equivalgano alla sua professione da una parte e alla sua capacità di lavoro dall'altra. Eppure, quella che le aziende tutte, quando avranno i robot e le AI più avanzate, tranquillamente adotteranno una visione di eliminare la forza lavoro umana, è una conseguenza appunto di questa visione da superare. E la sfida è nostra, quella di capire che cosa succederà dopo, quale sarà il futuro dell'economia, quello con i robot andrà benissimo, ma della vita degli individui e delle comunità, e loro hanno costruirsi degli obiettivi diversi. Hollywood ci rappresenta naturalmente questo come un conflitto inevitabile. Non venderebbero i biglietti al cinema o gli abbonamenti se non fosse così. Ma la distopia che questo ci rappresenta è una falsa opposizione. Il nemico sicuramente è la macchina stupida, quella che per esempio guidiamo noi tutti i giorni, mentre un nostro alleato è la macchina o il software intelligente. Ed è attraverso questa alleanza con macchine e software intelligenti che costruiremo il futuro. Quelli di voi che sono, se non spaventati, se non angosciati, comunque un po' turbati di questo futuro, possono tranquillizzarsi. È una strada che abbiamo cominciato a percorrere e già allora era esponenziale, già allora era super esponenziale. 1 milione di anni. Quando abbiamo cominciato ad utilizzare il fuoco per digerire il cibo che potevamo mangiare perdendo le calorie più rapidamente che non i nostri cugini gorilla che dedicano 15 ore al giorno per nutrirsi, quello era il momento in cui cominciavamo a trasformarci in una specie eterna. Ed è quello il percorso che dobbiamo con coraggio continuare, anche sperimentando provocatoriamente, chi in un modo o in un altro. Io per esempio ho un chip da una decina d'anni nella mano e l'obiettivo del chip non è tanto quello di essere monitorato attraverso i vaccini Covid tutti i giorni con il 5G e quant'altro, ma è un mero esperimento sociale. In effetti c'è un solo luogo dove a Stoccolma, appunto, in uno spazio di co-working, io con il chip posso fare tante cose, aprire le porte, prenotare sale riunioni, passare i miei contatti alle altre persone che lavorano lì, pagare per il caffè o usare la macchina fotocopiatrice. Dalle altre parti noi possiamo prendere per scontato che ci sia la presa elettrica, magari per ricaricare il cellulare, ci manca tutto, no? E in effetti la stanza è cablata di elettricità. Ma non è cablata per questo chip. Non c'è neanche più bisogno, e quello che 10 anni fa era esotico, adesso è una funzionalità in tutti i vostri cellulari, con il vantaggio che quando esce il prossimo modello voi andate nel negozio, vi date quello vecchio, prendete quello nuovo, mentre per me scavare e cambiare il chip è un po' più sanguinolento come cosa. L'obiettivo dell'esperimento sociale è quello di dirvi: ah, quando è finita la conferenza, chi vuole può venire e si sente sotto la pelle che c'è il chip. Tra l'altro, dentro di una capsuletta di vetro è come un chicco di riso. Metà delle persone inorridisce anche solo al pensiero di toccare il chip sotto la pelle, e va benissimo. Facendo così toccate il limite della vostra adattabilità. È un po' come l'allenatore che vi fa male ai muscoli e dopo sentite il giorno seguente che non avete neanche voglia, però vi convincono di andare ancora ad allenarvi. Questo tipo di esercizio è cruciale, è necessario, perché stiamo effettivamente arrivando ad un cambiamento di fase dove abbiamo l'opportunità di costruire un mondo molto diverso attraverso delle tecnologie che comunque non saremo in grado di fermare. Non è mai successo nella storia dell'umanità che qualcosa che sia stato inventato poi venisse disinventato. L'adattamento, però, è un adattamento che deve essere di natura diversa. A proposito, non so chi di voi si è accorto o l'ha intuito, ma tutte le slide sono fatte con l'intelligenza artificiale, tutte. Ma per esempio non mi ricordo cosa vi ho scritto, qualunque cosa. Qualche volta ho chiesto alle AI di generarmi un prompt per darlo a quello che mi fa l'immagine, perché non avevo voglia. Però penso che siano belle ragioni. L'adattamento di cui siamo padroni è un adattamento di base biologica. In effetti, cosa significa adattarsi? Significa mantenere la propria identità in un ambiente che cambia. Ma quanto può cambiare l'ambiente? Il nostro corpo, nel momento in cui la temperatura scende più di tanto, sale più di tanto, non è più capace di adattarsi. In effetti la prossima crisi umanitaria arriverà nel momento in cui la combinazione di temperatura e umidità in molte zone dell'India e del Pakistan arriverà ad una particolare posizione in questa combinazione di possibili valori, dove nessun essere vivente che effettua la propria termoregolazione attraverso la sudorazione può sopravvivere. Ed entro una decina d'anni saranno qualche centinaia di milioni di persone che vivranno sotto quelle condizioni. Quindi quelli di voi che sono contro l'immigrazione possono cominciare a chiedersi se è giusto far morire quelle 100 milioni di persone piuttosto di dirgli ok, spostiamoli da qualche altra parte dove gli esseri umani possono comunque sopravvivere. Certo che c'è l'adattamento biologico, è molto molto lento, c'è un tetto massimo rispetto alla velocità con cui gli esseri biologici possono cambiare. Se ad un branco di gnu voi dite ok, l'anno scorso dovevate fare 1000 chilometri per migrare durante la stagione secca e quest'anno penso che dobbiate farne 1100, e io dicono va bene, lo facciamo. Ma se poi gli dite poi l'anno prossimo, siccome sapete questo è un mondo adesso di jolting exponentials, abbiamo sentito, l'ha detto Orban, dovete fare 10.000 chilometri ad attraversare un oceano, gli gnu dicono, sapete cosa? Piuttosto ci estinguiamo. Ed è quello che è successo nell'arco di miliardi di anni di evoluzione biologica. Le estinzioni sono dovute alla incapacità degli organismi e delle specie di tenere il passo con il cambiamento dell'ambiente. E infatti l'ambiente che sta nascendo è un ambiente magari di questo cambiamento di fase simile a quello che è avvenuto circa 1 miliardo di anni fa sulla Terra, dove per 1 miliardo di anni i batteri anaerobici erano dominanti. Non avevano bisogno e non utilizzavano l'ossigeno, anzi l'ossigeno era per loro velenoso, ma erano padroni. Se 500 milioni di anni in mezzo a questo miliardo qualche conferenza di batteri anaerobici dichiarava che sarebbero durati per sempre, per 500 milioni di anni avrebbero avuto ragione. Poi è arrivato il cambiamento, i batteri aerobici, quelli che utilizzano l'ossigeno, sono apparsi, tra l'altro è stato il momento in cui gli oceani sono diventati trasparenti perché tutti i minerali disciolti sono precipitati e siamo oggi i discendenti di quel cambiamento. C'è forse un cambiamento simile che sta arrivando, un mondo in cui le intelligenze artificiali si troveranno perfettamente a casa e a loro agio. Un mondo dove noi dobbiamo sforzarci come non abbiamo mai fatto. La tranquilla zombificazione delle nostre esistenze che possiamo abbracciare per vivere con il reddito universale di base sui nostri divani a guardare le serie di Netflix infinite o i video di 15 secondi di TikTok e di YouTube perché la durata della nostra attenzione è tale da non poter più sopportare l'ora che le serie richiedono, è una strada senza uscita. Non possiamo prepararci al nuovo mondo da zombie. Dobbiamo diventare luminari, dobbiamo abbracciare un mondo dove siamo protagonisti delle nostre azioni, dove ci rendiamo conto che questi strumenti ci danno una superpotenza individuale, ognuno di noi. Quando avete risposto che avete quasi tutti provato, cioè, ero contentissimo, perché è un passo. E sapete per quante persone è difficilissimo fare quel passo? Quanti si accontentano leggere articoli di seconda o terza mano per poi sbuffare, mettere giù il giornale o spegnere la TV forse e non pensarci più. Eppure quel piccolo passo è quello che ci porta verso un futuro di dignità umana e di nuove ambizioni morali. Quali sono i dogmi che saremo in grado di abbandonare così come abbiamo abbandonato il dogma che gli schiavi sono necessari per una società efficace? Provate a pensarci, quali sono cose nel futuro che magari saranno universali e che oggi vi possono spaventare o addirittura generare orrore, ma che allora non solo saranno normali, ma si aspetterà e si pretenderà che voi adottiate quel modo di vivere che sarà la norma nel futuro. La nostra convinzione di essere la cima, il pinnacolo dell'evoluzione e dell'intelligenza sarà rapidamente messo a test e sarà meglio che ci prepariamo a condividere il pianeta con queste menti aliene che non sono extraterrestri, li stiamo facendo nascere noi. In effetti parliamo e ci chiediamo cosa succederà quando l'AI raggiungerà l'intelligenza umana. Beh, non so cosa succederà in quel particolare minuto, ma il minuto dopo l'AI avrà un'intelligenza superumana e non so se guarderà nello specchietto retrovisore, ma il minuto dopo avrà aumentato ancora e così avanti. La superintelligenza è quello con cui dovremo convivere, non una AI meramente umana. Ma i gradi di libertà che guadagneremo nel momento in cui ne saremo in grado di approfittarne saranno letteralmente incredibili, nel senso che con gli occhi di oggi non riusciremo a credere alle cose che saranno dentro le nostre possibilità, fintanto che riusciamo anche a coordinarci. L'espressione che viene utilizzata è quello di allineare l'intelligenza artificiale agli obiettivi umani, e di un'ingenuità veramente che fa tenerezza, perché certo che non possiamo generare un conflitto, ma non possiamo neanche pretendere di imporci su questi nuovi ospiti con cui dovremo confrontarci, perché ci aiutino loro a capire cosa significherà essere umano. La proporzione di umani biologici rispetto ad intelligenze artificiali, software o hardware che siano, è destinata ad avere una forma che magari non è quella che ci saremmo aspettati attraverso libri di fantascienza. Perché, certo, magari dagli 8 miliardi di esseri umani diventeremo 10, poi 20, avremo le colonie su Marte e tra la fascia degli asteroidi, magari anche oltre. Ma così come oggi c'è un'infinità di più di robot su Marte che non di esseri umani, così questa proporzione continuerà a mantenersi. Saremo benvenuti, saremo tenuti in considerazione, ma dovremo capire e guadagnarci il compito per avere un ruolo da protagonisti anche nel futuro. Ci sono voluti 13 miliardi di anni perché la materia, che prima non era in grado, cominciasse a svegliarsi. Siamo noi nella materia. E la materia che si sveglia è il nostro compito, quello di far sì che possa propagarsi per esplorare con curiosità, con immaginazione e creatività l'universo. Grazie. Grazie. Io sono pronto per le domande. Io non ho chiesto, ma... E ho qua i primi. Non posso fare condizioni.